L'idea, non così rara come potrebbe sembrare, l'idea di poter conoscere in largo anticipo il momento della propria morte viene basata su varie argomentazioni. Qui ne terrò presenti un paio. La prima è quella che viene espressa da Desmond Morris in quella serie di annotazioni di viaggio pubblicate con il titolo dell'Occhio Nudo. Allorché per Morris si tratta di lasciare Malta dopo un lungo soggiorno con moglie e figlio, e il noto antropologo si dice che ci sono tante cose da vedere, tanti paesi da esplorare, e butta lì una dichiarazione esorcistica. Racconta di aver calcolato la longevità media dei suoi 10 antenati maschi più prossimi e di averne ricavato un'aspettativa di vita, come dice lui e come dicono i sociologi, un'aspettativa di vita di 61 anni. Lui è nato nel 1928, sta scrivendo nel 1968, anche se il libro poi è uscito nel 2001, e pertanto gli rimarrebbe poco più di 2 decenni. Occhio e croce, non dovrebbe morire dopo il 1989, ok? L'esorcismo ha funzionato perché ancora nel 1996 Morris è in visita antropologica a Tahiti e nel 1998 con Signora si concede un lussuosissimo giro del mondo in 92 giorni. Siamo nel dicembre 2002 e Desmond Morris, alla faccia dei suoi decidui antenati, sembra tuttora vivo. Fatto è che il nostro organismo non è un orologio a molla, la carica non si esaurisce secondo leggi meccaniche ineccepibilmente descrivibili ed ineccepibilmente predittive. Viviamo in un ambiente e interagiamo costantemente con questo ambiente, diamo e riceviamo, e sia ciò che diamo che ciò che riceviamo ci modifica, e mica sempre in meglio. Basta un vaso di fiori dall'ottavo piano per mandare a monte i più raffinati calcoli statistici. La seconda argomentazione è quella di un tale che era nato nel 1856 e che una volta adulto, una volta padre di famiglia, una volta professionalmente affermato, una volta fin stimato nella comunità scientifica, una volta adulto con la richiesta di allacciamento alla rete telefonica della sua città, ricevette l'assegnazione del numero di telefono in questione. Numero di telefono che fin dal primo acchito non gli piacque affatto. Perché era composto dalle seguenti cifre. Era composto da 1, 4, 3, 6 e 2. Allora, 14.362 oppure 143.62 più 14.362, a seconda, diciamo, degli stili associativi più in voga. Non gli piacque quel numero di telefono per almeno un paio di ragioni. La prima era che fin da giovane aveva avuto una vera e propria ossessione per due numeri, il 61 e il 62. E quel numero telefonico, maledizione, terminava proprio con un 62. A questo punto, a dire il vero, ne sappiamo già abbastanza per farci un'opinione su questo genere di faccende. Allora, l'argomentazione di Morris, o almeno più genericamente la sua linea argomentativa, è comprensibile. Palesemente errata, innanzitutto perché... innanzitutto perché lui che doveva essere morto è invece vivo, e poi per le considerazioni svolte, diciamo, sulla casualità delle interazioni fra qualsiasi organismo vivente e l'ambiente in cui vive. Diciamo, l'argomentazione è palesemente errata, ma comprensibile. In certi casi, per lo più disgraziatissimi, è vero che si può fare qualche previsione su basi più o meno genetiche. Per esempio, gli individui che soffrono del cosiddetto favismo sono portatori di una particolare mutazione nel gene dell'enzima glucosio 6 fosfato deidrogenasi, e se si trovano a passare per un campo di fave in fiore o se per errore mangiano fave, vanno incontro a gravi problemi, crisi di soffocamento e anemia, per citarne alcuni. La vicenda che racconta Giamblico su Pitagora, che era nemico delle fave e che a quanto sembra muore pur di non attraversarne un campo, non so fino a che punto possa essere messo in stretta correlazione con queste nozioni di genetica che in effetti ci provengono dal mondo attuale e ben difficilmente potremmo, per quanto geniale lo possiamo considerare, ascriverle anche a Pitagora. Ma faccio un altro esempio, la coria di Huntington. Dal nome del dottor Georg Huntington, che la studiò nella seconda metà dell'Ottocento. La corea di Huntington dipende da una mutazione genetica ed è una irreparabile forma di demenza senile che viene trasmessa sistematicamente a metà della prole di ogni individuo che ne sia affetto, manifestandosi con tragica puntualità non prima dei 40 anni. La seconda linea argomentativa invece è palesemente inattendibile. Già il fatto che qualcuno nutra una vera e propria ossessione per un numero non testimonia della sua disponibilità, diciamo, a guardare con un minimo di occhio scientifico alle cose che lo circondano e lo riguardano. Che poi si prende la briga di riscontrare la presenza o meno di questi suoi numeri ossessionanti a destra e a manca e fin nel proprio numero telefonico è perlomeno indizio sicuro del fatto che non abbia di meglio da fare e che incontri nella sua vita di relazione non poche difficoltà. La si immagina questa persona mentre controlla maniacalmente il numero del biglietto del tram, lo si vede scendere alla prima fermata se c'è un 61 o un 62, oppure la si immagina mentre scarta dalle case abitabili tutte quelle situate ai numeri civici sbagliati. Sigmund Freud morì il 23 settembre del 1939. Dal 1856 al 1939 il conto è presto fatto. Né a 61 né a 62 anni dunque, ma a 83 anni è morto. Da quel che si evince dall'epistolario con il suo allievo Carl Gustav Jung, c'era allora una seconda ragione. Una seconda ragione più scema ancora della prima, perché quel numero telefonico appioppatogli dalla società dei telefoni gli incutesse timore. Fra il tanto di scritto e di pubblicato, Freud reputava l'interpretazione dei sogni la sua opera principale e, ma guarda come non gli sfugge nulla, quest'opera venne pubblicata allorché lui aveva ormai compiuto i 43 anni. Le cifre del suo numero telefonico gli si associarono automaticamente nella mente. 1 43 62. L'uno stava per il capolavoro della sua vita. Il 43 stava per la sua età al momento in cui detto capolavoro venne a rischiarare della propria luce il mondo. E il 62 finale costituiva il conto in sospeso di vecchia data. Sono tantissimi quelli che con assunti epistemologici di questo tipo parlano la notte sulle televisioni private, per esempio consigliando i numeri più probabili per le prossime estrazioni al gioco del lotto o curando drasticamente una vasta gamma di malattie. Ma al tempo di Freud e di Jung, lo sappiamo, la situazione era diversa. E presumibilmente, in conseguenza di ciò, è sorto il movimento psicoanalitico. Alcuni aspetti di quanto detto finora meritano una considerazione in chiave evoluzionistica. Se si fosse portati a pensare che le mutazioni genetiche perniciose siano destinate a sparire dalla faccia della Terra, non si spiegherebbe la resistenza dal 600 a oggi della Corea di Huntington, che è tuttora, a quanto dicono i biologi, è una malattia attivabile nei soli Stati Uniti d'America in un caso su 20.000. Perché? Perché la selezione naturale non ha fatto secco il gene responsabile di una malattia ereditaria talmente grave? Perché la selezione naturale favorisce la riproduzione dell'individuo, ma se ne frega bellamente del suo stato di salute. Fino ai 40 anni sano ci arriva, e soltanto il 50% dei suoi figli subirà il medesimo destino. Nel bilancio darwiniano i conti tornano. Tale consapevolezza, tuttavia, mostra ancora una volta l'inadeguatezza, in definitiva, di quell'analogia fra geni e memi, considerando i primi l'unità biologica e i secondi l'unità culturale. Per esempio, non è detto che da un individuo affetto da psicoanalisi debba nascere un 50% di figli immuni da questa malattia.